E allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolinea è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, come ogni giovedì pomeriggio in tall'aria, questa è Attica Blues. E allora, come dicevamo giovedì scorso, il 4 aprile è stato l'anniversario dell'assassinio di Martin Luther King. E quindi questo giovedì dedichiamo la puntata ai diritti civili in musica. Una commissione che ha percorso la storia, quella tra i diritti civili e la musica, una commissione profonda, un legame profondissimo. Vi ricordo che all'inizio i cantanti di colori dovevano entrare dalla porta secondaria nei locali per cantare. E allora noi partiamo proprio da una frase di Martin Luther King che fu riportata nella brochure ufficiale del Festival Jazz di Berlino del 1964. Martin Luther King diceva: "Non c'è da stupirsi che la ricerca d'identità in molti neri americani sia stata prima portata dal jazz. Gran parte del potere del nostro movimento di liberazione proviene da questa musica. Ci ha consolati e portati avanti con i suoi ritmi caldi quando le nostre menti erano intorpidite nell'impasse della disperazione." E non c'è dubbio, infatti, che il jazz è stata la colonna sonora di tutti quanti i movimenti dei diritti civili in America, soprattutto negli anni 50 e 60, e quindi anche la New Thing della Impulse, tutto il messaggio di Coltrane e insomma tutto l'orgoglio nero che poi si rifletteva ovviamente anche in musica. Ma noi partiamo molto prima, partiamo dal 1939, quando una prima cantante denunciò tutto ciò, e il suo nome era Billie Holiday. Questa è la sua Strange Fruit. Thank you. fallen trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant sun, the bulging eyes and the twisted mouth, magnolia, sweet and fresh, then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, the sun to rot, for the tree to drop. E come sosteneva il critico Leonard Feodor, questa è la prima significativa protesta in parole e musica, il primo lamento non tacito contro il razzismo. E allora correva, abbiamo detto, l'anno 1939, e come dicevi tu, in quegli anni spesso i neri non potevano entrare dalla porta principale dei locali, ma non al Caffè Society di New York, uno dei pochi locali che permette anche alla gente di colore di entrare, un posto speciale dove si incontrano intellettuali e musicisti. E nel locale la Holiday incontra per la prima volta Abel Meerpool, un poeta, scrittore, compositore e un fervido attivista politico marxista, e per questo osteggiato dal governo americano. E lì sul tavolo del Caffè Society, Lewis Allen, questo era il suo pseudonimo, e la Holiday scrissero i versi di Strange Fruit, una canzone bellissima, drammatica, agghiacciante, sui linciaggi dei neri negli Stati del Sud. Una canzone durissima contro le tragedie del razzismo del Ku Klux Klan, e ovviamente allora non erano argomenti da mettere in musica, tant'è che la Columbia, che aveva sotto contratto la Holiday, decise di non pubblicarle, ma lasciando comunque libertà di poterla pubblicare successivamente, e lei la pubblicò con la Commodore Records. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Gli alberi del sud hanno uno strano frutto, sangue sulle foglie e sangue alle radici, corpi neri oscillano nella brezza del sud, uno strano frutto appeso ai pioppi. Scena pastorale del galante sud, gli occhi sporgenti e le bocche contorte, profumo di magnole dolce e fresco. Poi l'improvviso odore di carne che brucia, ecco il frutto che i corvi beccano, che la pioggia coglie, che il vento succhia, che il sole fa marcire, che gli alberi fanno cadere, ecco un raccolto strano e amaro. Questi sono i versi di Strange Fruit di Billie Holiday. Sempre la canzone per il finale dei suoi spettacoli, perché tutto ciò lasciava inevitabilmente il pubblico in silenzio, infatti le luci poi si spegnevano e Billie Holiday spariva dal palco e diceva: non c'è nient'altro che possa venire dopo questa canzone. Bitter cry. lo stesso Charles Mingus raccontò: cambiò la mia idea su come una canzone possa raccontare una storia. Quella canzone è lì per dire ai bianchi cosa fanno di sbagliato riguardo la razza. E allora continuiamo la selezione proprio con Charles Mingus. Continue this set with a composition dedicated to the first or second or third All-American heel, Faubus, and it's titled The Fables of Faubus. Oh Lord, don't let them shoot us. Oh Lord, don't let them stab us. Oh Lord, don't let them tarnfeather us. Oh Lord, no more swastikas. Era il 17 maggio 1954, quando con una storica sentenza la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarò illegali e incostituzionali le leggi di segregazione razziale nelle scuole, intimandone l'immediata cessazione in tutti gli stati. Quando però un gruppo di ragazzi tentò di iscriversi nelle scuole del sud riservate ai bianchi, le proteste furono diffuse, in particolare a Little Rock in Arkansas. Così, quando 3 anni più tardi, nel 1957, vennero accettati 9 ragazzi afroamericani nell'istituto superiore della città, il governatore dell'Arkansas, Orval Faubus, ordinò alla Guardia Nazionale di supportare un gruppo di segregazionisti bianchi nell'impedire loro di frequentare le lezioni. E neanche l'intervento del presidente Eisenhower riuscì a impedire le violenze che continuarono. E un referendum cittadino, Faubus ottenne la chiusura di tutte le scuole pubbliche per un intero anno. E così il suo piano di aprire le scuole private per i bianchi venne contemporaneamente bloccato e fu di fatto impedito l'accesso alle scuole non solo ai 9 ragazzi di colore, ma anche ai loro coetanei bianchi. E ovviamente a essere ritenuto colpevole non fu lo stesso Faubus, ma la comunità afroamericana. Come protesta diretta contro le azioni del governatore, Chas Mingus scrisse Fables of Fabus e l'ha incisa nel 1959 nel suo disco Mingus Aum. Tuttavia la Columbia rifiutò di far comparire il testo nell'album e la canzone ci stiamo ascoltando, motivo per cui è presente solo nella sua versione strumentale. Mingus però non si diede per vinto. L'anno successivo la canzone comparì nell'album Charles Mingus Presents Charles Mingus, registrato con l'etichetta discografica Candid Records, che è quella che ci stiamo ascoltando con il testo, completa finalmente di testo, con il nome Original Fabus Fables. La Columbia, la major qual era, comunque era molto attenta ai testi delle canzoni, quindi abbiamo visto che già... Assolutamente, erano tutte le case discografiche dell'epoca, comunque non si volevano sbilanciare in appunto in testi politici, in canzoni che potevano comunque irrigidire il pubblico bianco, che poi era quello che comprava i dischi. Tutto ciò fino all'avvento della Impulse, che con Creed Taylor e soprattutto con Bob Dylan invece non si facevano di questi problemi, in quanto erano comunque una piccola casa discografica ma con alle spalle la ABC, e quindi insomma avevano tanti soldi da investire e quindi riuscivano ad aggirare tutto ciò, e anzi a diventare la casa di riferimento per essere portavoce proprio dei testi politici. Assolutamente, andare poi vita alla New Thing, che sarà il filone jazz degli anni 60, quello più duro, più cattivo, che accompagnerà tutte le marce e i movimenti per i diritti civili. E dal 1959 ci spostiamo a un anno prima, nel 58, quando Sonny Rollins era ormai uno dei più famosi e apprezzati sassofonisti del periodo. Centinaia di ottime recensioni sui giornali, foto, articoli, eppure quando cercò di affittare un appartamento gli venne rifiutato perché nero. A che cosa serve essere celebri, disse Rollins, se rimani sempre un negro, come si suol dire. E da questa indignazione nacque The Freedom Suite, una composizione estesa caratterizzata da continui cambi di tempo, variazioni e temi improvvisati. Libertà quindi che indicava tante cose radicate nello spirito quanto nella musica di Sonny Rollins, ma a togliere il dubbio che il significato del brano fosse prima di tutto politico era la dichiarazione che accompagnò l'uscita del disco e che venne attribuita proprio al sassofonista. L'America è radicata nella cultura afro, le sue espressioni colloquiali, il suo carattere, la sua musica. È davvero ironico che i neri, che più di qualsiasi altro popolo possono rivendicarne come propria la cultura americana, continuino a essere perseguitati e repressi, a tal punto che la cultura afroamericana, che ha esemplificato la tolleranza con la sola esistenza, viene trattata inumanamente. Thank you. Questa dichiarazione ovviamente che manifestava il carattere politico del brano e dello stesso album causarono una violenta reazione che spinse l'etichetta discografica a ritirare momentaneamente l'LP dal mercato e a ripubblicarlo senza nessuna dichiarazione scritta e con un altro titolo. Anche se poi per fortuna la versione che abbiamo noi è poi uscita successivamente riprende proprio il titolo Freedom Suite e questo brano che apre il disco, che dura 19 minuti e 17 secondi. Allora abbiamo in linea Derrick Morgan, che domani suonerà all'Angelo Mai insieme a Roy Paci e Andy Me Too. Derrick, you listen us? Yes, I'm here. Yeah! Derrick Morgan, storico musicista giamaicano che ha suonato con Jimmy Cliff, con Bob Marley. Derrick, you here in Rome? Yes, man, I'm here in Rome now. Yes! Tomorrow you play with Andy Me Too and Roy Paci. Yeah, tomorrow I'll be there. I will be there. I hope to see everyone too. Yes, you foundation musician. You play with Jimmy Cliff, Bob Marley, many musicians in the history of music, of Jamaican music. That's right, that's right. Jimmy Cliff, Bob Marley, Desmond Dekker, Prince Buster, name them. There's a lot of them. We are making a transmission on the civil right, why Martin Luther King was killed in the 4th of April of 60 years ago. Yes. Well, we're going to be there with them tonight. Yes. Yeah. What about the commission of the Jamaican music and the civil right? Yes. There will be live Jamaican music tomorrow. Yes, what about the commission about Jamaican music and civil right? Jamaican music is the number one music throughout the world, you know? Reggae music, ska music, rock steady music, and dancehall music. That's Jamaican number one, you know? Throughout the world. Well recognized. Yes, but Jamaican music talk about civil right also. In the history. Oh yes. Well, Jamaica music, it built after the nowadays thing that's going on. They send a lot of message, you know. Jamaican music send a lot of message. Yes. Yeah. E allora Derrick Morgan ci dice che la musica giamaicana manda un sacco di messaggi. Dai tempi che furono, Derrick ha collaborato con molti musicisti, Prince Buster, Derrick Morgan, Bob Marley, Jimmy Cliff, classe 1940, vi ricordo. Ok, then we see you tomorrow night. Tomorrow night will be a great night. Everyone must come out and let us have good music going on. Okay, there will be also Roy Paci, the Italian trumpet. That's right. Okay, then we see you tomorrow night. Okay. At Angelo Mai. Looking forward to see everyone tomorrow night. Okay, blessed love. Blessed. Yeah. Allora continuiamo la selezione. Assolutamente sì, ed era il primo febbraio del 1960 quando Joseph McNeil, Franklin McCain, Edsel Blay Jr. e David Richmond si sedettero al bancone del Woolworth Store chiedendo di essere serviti per pranzo. Ma quel bancone però era riservato ai clienti bianchi e invece di essere serviti ai quattro venne dunque chiesto di allontanarsi. Loro rimasero seduti fino alla chiusura del negozio e il giorno dopo quei quattro diventarono 20, il terzo giorno 60, il quarto 300. Come un virus la protesta si espanse in altre città e in altri stati. Quel bancone diventò una delle immagini della segregazione razziale e proprio questa immagine comparve sulla copertina del disco su cui Max Roach iniziò a lavorare nel 1959, un disco che poi prese il titolo di We Insist, Freedom Now, Sweet, con un chiaro riferimento all'album di qualche anno prima, proprio di Sonny Rollins. E in copertina c'è proprio i quattro seduti al bancone. Una copertina stupenda per un disco, anche questo uscito per la Candid Record. Copertina rigorosamente in bianco e nero. Una copertina militante, una formazione meravigliosa di questo album che comprende Brooke Litter alla tromba, Julian Preisser al trombone, Walter Benton e Coleman Hawkins al sassofono tenore, James Shakes al contrabbasso, Michael Olatunji alle congas, Ray Mantilla e Thomas Duval alle percussioni e la voce è quella di Abbe Lincoln. Freedom Day, it's Freedom Day. Throw those shackling chains away. Everybody that I see says it's really true. We're free. Roach iniziò a lavorare a questo album nel 1959 con il poeta e attivista per i diritti civili Oscar Brown. Un album originariamente concepito per essere concluso entro il centenale del proclama di emancipazione nel 1963, ma poi l'album uscì nel 1960 proprio sulla spinta della grande ondata di manifestazioni. Ma poi avvenne la rottura tra i due per motivi essenzialmente politici. Infatti, benché fossero d'accordo sulle questioni legate alla giustizia sociale e ai diritti civili, Max Roach e Oscar Brown dissentivano su quali fossero i giusti mezzi per raggiungere tali obiettivi. Max Roach infatti sposava la linea dura di Malcolm X, mentre Oscar Brown seguiva più volentieri la linea pacifista di Martin Luther King. Ma comunque l'album cambiò titolo, il titolo originario era The Beat e poi divenne We Insist Freedom Now Sweet, e il lavoro comunque di Brown rimase nell'album sebbene a sua insaputa. Questa è Freedom Day, scritta proprio da Max Roach e Oscar Brown Jr. Whisper, listen, whisper, say we're free. Rumors flying, must be lying, can it really be? Can't conceive it, don't believe it, but that's what they say. Slave no longer, slave no longer. Freedom Day, Freedom Day, it's Freedom Day. Throw those shackling chains away. Everybody that I see says it's really true. We're free, Freedom Day, it's Freedom Day. Free to vote. Nel 1960, sebbene due sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti avessero stabilito come incostituzionale la segregazione razziale sui mezzi di trasporto, tale decisione continuava ad essere ampiamente ignorata, soprattutto negli stati del sud. E qui, per sfidare questo ingiusto stato di cose, i cosiddetti Freedom Riders iniziarono a viaggiare sulle linee interstatali del sud, violando le leggi segregazioniste. La risposta a questa forma di dissidenza fu, come sempre, violenta. La polizia infatti interveniva arrestando chiunque violasse le leggi statali e in più di un'occasione ritardò il suo intervento, permettendo il linciaggio degli attivisti neri. E tutto ciò in onore ai Freedom Riders, Art Blakey compose e suonò un incredibile solo di batteria di 7 minuti e mezzo, che diede anche il titolo all'album, inciso con i Jazz Messenger nel 1961. E allora ce l'ascoltiamo, Art Blakey, The Freedom Rider. Furono veramente tanti jazzisti che si occuparono di questi temi, e questi temi comunque influenzarono anche il ritorno all'Africa, all'orgoglio nero, al ritorno al blues, al gospel e alla libertà e alla rinuncia dei canoni invece della musica europea, che stavano influenzando il jazz con il cool degli anni 50. Ma per esempio c'erano anche episodi meno eclatanti ma comunque importanti, come quelli di Duke Ellington, che evitava, non accettò mai mai di suonare davanti a locali pubblici segregati oppure in auditorium dove ci fossero delle aree riservate ai neri e delle aree riservate ai bianchi. Un altro fu Norman Granz, lo storico empresario che fondò la casa discografica Verve, che non solo chiese espressamente che non vi fossero indicazioni su quali settori le varie etnie dovessero occupare, ma si assicurò sempre personalmente di staccare i cartelli che indicavano i bagni per i bianchi e quelli per i neri. Era il 15 settembre del 1963 quando fu il turno di Birmingham, Alabama, a versare lacrime e rabbia. Quattro membri del Ku Klux Klan nascosero almeno 15 bastoni di dinamite sotto i gradini dell'ingresso centrale di una chiesa battista e nell'esplosione vennero ferite 22 persone e morirono 4 bambini. Ovviamente tutto ciò scatenò nel resto della popolazione afroamericana una reazione e i funerali delle 3 e delle 4 bambine si tennero 3 giorni dopo, il 18 settembre, alla presenza anche di Martin Luther King, che in quell'occasione lesse il discorso che avrebbe ispirato John Coltrane a comporre Alabama. John Coltrane qui è già con il suo quartetto storico formato da Jimmy Garrison, Elvin Jones e dal pianista McCoy Tyner, che fu proprio lui a raccontare la genesi del brano. Era sui giornali, stampato, così lui aveva preso le forme ritmiche di quel discorso e le aveva trasformate in Alabama. E allora noi ce l'ascoltiamo in un live al Birdland, un locale di New York che porta il nome, viene ripreso dalla figura di Charlie Parker, però lo stesso Parker non poteva e non ebbe mai potuto suonare in questo locale. Alabama, John Coltrane Quartet. Noi vi salutiamo con questo brano. E come spesso accade in queste intense puntate monografiche, molta roba e molti brani sono rimasti fuori, a partire dall'Attica Blues, il disco di Archie Shepp, di cui volevamo anche raccontare la storia. E allora direi di fare un'altra puntata più in là, magari. Assolutamente sì. Dedicato a questo bellissimo tema, insomma. Direi tra due giovedì, visto che giovedì prossimo abbiamo un ospite. Abbiamo un ospite, Marcello Allulli, che ci verrà a trovare, un sassofonista, veramente un bel personaggio, e tra l'altro verrà anche col suo sassofono, quindi ci farà sentire anche dal vivo qualche cosa. E nel salutarvi e darvi appuntamento a giovedì prossimo, vi ricordiamo anche le nostre pagine social di Facebook, Instagram, Twitter e anche la nostra playlist su Spotify, dove troverete una raccolta di brani di oltre 30 ore con, insomma, i brani più rappresentativi di questa trasmissione. E allora un saluto a tutte e a tutti e ci sentiamo giovedì prossimo con Marco Allulli. Marcello Allulli.